in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani e che, come potete naturalmente immaginare, sono praticamente totalmente dedicati all'epidemia che stiamo vivendo e all'emergenza. E ho tenuto a parte anche qualche altra notizia, poi ci sono i supplementi della domenica che in qualche modo, sempre dal punto di vista della cultura, della curiosità anche sociologica, filosofica se vogliamo, trattano, alla fine siamo arrivati a questo e credo sia giusto così, trattano comunque nei loro articoli principali il tema di come si può reagire a questa epidemia. Il Sole 24 Ore, come avete sentito nei GR, sono arrivate molto tardi ieri queste novità, comunque il titolo è Virus, nuova stretta del governo, stop alle attività non strategiche. Vi segnalo dalla prima pagina un'intervista che poi continua a pagina 3 di Beda Romano, che è il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, a Paolo Gentiloni, commissario europeo agli affari economici, perché naturalmente sì, è italiano, però è un commissario europeo. Sappiamo che fin dall'inizio ha fatto presente, quando magari così non era ancora chiarissimo, anche se poi lo è diventato, e abbiamo sentito le dichiarazioni del Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, però fin dall'inizio Paolo Gentiloni ha detto: questa è una situazione di emergenza, dovremo trovare rimedi di emergenza. E infatti l'intervista si intitola, la trovate a pagina 3, Non possiamo farcela con gli strumenti anticrisi di 10 anni fa, e naturalmente il pensiero va al crack di Lehman Brothers, che nel settembre del 2008 innescò la crisi finanziaria globale, e anche poi al malato più grave in Europa, che era la Grecia, insieme in realtà all'Irlanda. Vi segnalo anche, sempre in tema Unione Europea, un articolo che trovate a pagina 2 di Giuseppe Chiallino e Gianni Trovati, governo a caccia dei fondi dell'Unione Europea non spesi, perché sapete che questo è un altro problema che l'Italia si porta avanti da tantissimo tempo, cioè il fatto che comunque all'Italia erano stati assegnati tanti fondi europei che poi, andando a indagare, si scopre non sono mai stati spesi. Questa è un'altra via. Il Corriere della Sera, uffici e aziende, nuove chiusure. La fotonotizia è stata scattata davanti al piazzale, davanti a un'Esselunga di Prato, ed è abbastanza impressionante perché è una fila ordinatissima, ma ricorda molto un quadro di Magritte dove le persone sono distanziate. E quindi Sandro Veronesi, grande scrittore, tra l'altro candidato al premio Strega con il suo libro Il Colibrì, legge questa immagine, un'immagine che è già nella storia. Dal Corriere della Sera tantissime altre notizie, anche in questo caso sempre legate all'epidemia da coronavirus. C'è una testimonianza di un medico, Mario Melazzini, che è malato di SLA ma continua di sclerosi laterale amiotrofica, quindi continua comunque a lavorare, e in prima linea il dottore con la SLA, la mia prima linea. E poi, questo è interessante, Massimo Gaggi, corrispondente dagli Stati Uniti del Corriere della Sera, lo racconta oggi, ma in realtà è un fatto di cui si parla molto negli Stati Uniti da un paio di giorni. Sono i senatori, ce ne sono 3 repubblicani e una democratic, del Partito Democratico, che hanno venduto molte loro azioni prima che iniziasse il crollo. Scandalo negli USA, affari sull'epidemia. La Repubblica, Italia sbarrata, e poi naturalmente la Repubblica dà tanto spazio in prima pagina alla scomparsa di Gianni Mura, che è morto per un infarto ieri a 74 anni, e lo ricorda Emanuela Audisio, che è la giornalista di punta sportiva della Repubblica. Ciao Gianni, il nostro caro campionissimo, ma c'è anche un ricordo del direttore di Repubblica Carlo Verdelli, di Michele Serra e di Giuseppe Smorto. Con la Repubblica, come ogni domenica, in edicola L'Espresso, in copertina un disegno di Mauro Biani, che è un'infermiera, è chiaramente un'infermiera, e semplicemente la scritta grazie. Anche in questo caso il numero è praticamente monografico su tutto quello che, tutte le storie che si possono raccontare del virus, e naturalmente anche le molte teorie scientifiche. Poi c'è naturalmente il tema che gli scienziati sicuramente devono dare il loro contributo, lo stanno dando in tutte le task force istituite nei vari paesi, dall'Italia agli Stati Uniti. Le decisioni però le deve prendere la politica. La stampa, la scelta di Conte, fermiamo l'Italia, ecco appunto. La fotonotizia però è dedicata alla Spagna, perché la Spagna è il paese dove già adesso c'è il numero di morti maggiore e di contagi in Europa, ma soprattutto è probabilmente quello che seguirà il percorso che abbiamo fatto noi in Italia. Francesco Olivo da Madrid racconta: dramma a Madrid, fra 3 giorni peggio dell'Italia. Il Messaggero: chiude tutto, anche le fabbriche. La foto scelta è la stessa del Corriere, questa foto davanti all'Esselunga di Prato. Dovete immaginare come se fosse un lunghissimo serpentone, ma senza essere diviso da alcun tipo di transenna, quindi un serpentone assolutamente spontaneo. Romano Prodi, che come ogni domenica interviene sul Messaggero, si concentra sui cosiddetti Covid coronavirus bond o Covid bond e dice: qui si gioca il destino dell'Europa. Vi leggo le prime righe, perché insomma Romano Prodi è stato anche presidente della Commissione Europea, quindi sicuramente su questi temi è una voce autorevole. È trascorso una sola settimana e si è di nuovo rovesciato il mondo. Mentre la Cina, da cui tutto è partito, ha comunicato che non vi era più nessun contagiato, il coronavirus si è diffuso in quasi tutto il pianeta. E naturalmente un accenno all'Italia: tra i paesi ad alto livello di reddito, solo l'Italia, anche perché attaccata con rapida e inusitata violenza dal morbo, aveva preso drastiche misure per frenarne l'espansione. Ora, mentre la Cina annuncia di incamminarsi verso una prudente normalità riaprendo il 90% delle proprie fabbriche, la quasi totalità dei paesi europei e gli Stati Uniti hanno adottato misure di contenimento che progressivamente si avvicinano a quelle italiane. E la parte sui Covid bond in particolare, di cui si deciderà nei prossimi giorni, è a pagina 14. Il Giorno: il virus non si arresta, l'Italia chiude, quindi ovviamente anche in questo caso il tema in prima pagina. Anche gli aggiornamenti sui contagiati illustri, potremmo dire così, nel mondo dello sport, illustri più che altro perché sono nomi molto conosciuti. Ci sono anche due giocatori di calcio della Serie A, Dybala e Maldini. E poi la notizia che l'ha data anche lo stesso Piero Chiambretti, il famoso conduttore televisivo: è morta sua mamma e lui è ricoverato. Il Giornale: aiutiamoli noi. Perché questo titolo? Perché insieme Il Giornale e Libero aprono una sottoscrizione per l'ospedale di Milano, quello che dovrebbe sorgere vicino a Fiera Milano City. E colgo l'occasione perché non faccio sempre in tempo a scusarmi dei miei errori, delle segnalazioni, perché la settimana scorsa avevo detto che sarebbe sorto nell'ex, dove c'era stato l'Expo. Quella è la Fiera di Milano, vicino alla Fiera di Milano di Rho. Ovviamente invece è proprio un ospedale di città, tra l'altro proprio qui vicino alla sede del Sole 24 Ore, appunto vicino al quartiere di Fiera Milano City, anzi all'interno del quartiere di Fiera Milano City. Questa sottoscrizione è per quell'ospedale, e quindi Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, e Vittorio Feltri, direttore di Libero, firmano l'editoriale di prima pagina, che poi trovate naturalmente anche su Libero. Vi segnalo un intervento di Bruno Vespa, che in realtà è un post che ha messo sulla sua pagina Facebook: il Parlamento non chiuda, è l'ospedale d'Italia. Il problema è come naturalmente mantenere le distanze in Parlamento, o magari introdurre in qualche modo il televoto. Se ne sta discutendo, vedremo se ci saranno novità anche su questo nei prossimi giorni. La Verità: strage, punto esclamativo, ma regaliamo ospedali all'estero. Incredibile, qui non sappiamo dove mettere i malati, abbiamo mandato 300 letti con respiratori in Lussemburgo, che a oggi conta appena 8 morti e li userà per prevenzione. Intanto Macron continua a scaricarci migranti a Ventimiglia e il nostro governo tace. La foto scelta è quella di Vincenzo Boccia, il ministro per gli affari regionali, che sapete ha lanciato 2 sere fa un bando per medici che volontariamente da tutta Italia si dicessero disponibili ad andare a prestare la loro opera nelle regioni più colpite. Addirittura hanno risposto in più di 8.000 a questo bando, però mentre lo annunciava Vincenzo Boccia aveva un tratto una mascherina attaccata solo all'orecchio, poi non sappiamo bene perché a un certo punto ha sorriso. E la fotonotizia è scelta dalla Verità per la prima pagina. Hanno fatto il disastro mascherine, prendono in giro chi si lamenta, il ministro Boccia deve dimettersi. Ecco, Libero, l'Europa è un ghetto, l'Italia è un camposanto. Vi dicevo l'editoriale, anche qui siccome è un'iniziativa congiunta di Giornale Libero, trovate appunto l'editoriale di Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri anche sulla prima pagina di Libero. Il Fatto Quotidiano: la Lombardia è fuori controllo, perché naturalmente sapete, avete sentito tutti i numeri di ieri con questo picco in Lombardia, e quindi tutti gli approfondimenti su questo. C'è anche un approfondimento, perché come vi dicevo, i giornali poi in qualche modo si occupano in tutte le loro pagine delle conseguenze di questa epidemia e questo lockdown di fatto dell'Italia. Per esempio c'è il problema delle rette scolastiche universitarie. Rette invariate alla Bocconi, dalla provincia di Bolzano alle scuole private, scuole e università che continuano a far pagare la retta con mensa inclusa, anche se sono ferme da un mese. Avvenire, porta in faccia al virus, il tema quello appunto dell'ulteriore chiusura, dell'ulteriore stretta. Richiamato in prima pagina anche il ruolo che sta avendo la Caritas, perché come abbiamo detto anche nelle settimane scorse, e non, questo vale non solo per l'Italia ma per tanti altri paesi, le persone già più deboli o addirittura le persone che non hanno una casa sono ancora più a rischio. Innanzitutto è difficile trasmettere loro il messaggio, per esempio, di non assembrarsi. L'ho visto anche io ieri qui a Milano, dove ci sono i posti dove spesso si trovano delle persone senza tetto, erano vicinissime. E naturalmente c'è il problema anche dei ricoveri e dove queste persone possono andare. Adesso tra l'altro è in arrivo un'ondata di freddo, e quindi a maggior ragione diventa un'emergenza trovare loro un ricovero, ma anche proteggere loro e naturalmente le persone che li accolgono e che magari li curano. Caritas più che mai, vicinanza e servizio. Ultima prima pagina prima di una pausa, dove sentiremo appunto anche gli aggiornamenti sul meteo, il manifesto catena di smontaggio. Lombardia e Piemonte decidono di chiudere gli uffici, i cantieri e tutte le attività non essenziali, ma per le fabbriche la decisione è lasciata al governo. Pressing dei sindacati per spezzare la catena del contagio. E sempre dal manifesto un aggiornamento su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Abbiamo detto sul Corriere, Massimo Gaggi racconta di questi membri del Parlamento che hanno venduto le loro azioni perché hanno letto in anticipo questa informativa dell'intelligence. Pare che questa stessa informativa, così dice il manifesto, ma anche negli Stati Uniti se ne è parlato molto, ne ha parlato per esempio il Washington Post, Trump già a gennaio sapeva e ora vaneggia. Doppia informativa dell'intelligence sulla diffusione planetaria della pandemia ignorata dal presidente statunitense. Ricorderete che in uno degli ultimi comizi Trump aveva detto che il virus era un hoax, cioè un finto, una scusa, un pretesto dei democratici che non erano riusciti a farlo dimettere o addirittura a portarlo all'impeachment con la questione dell'Ucraina e prima ancora con quella della Russia, e adesso c'era il coronavirus. Ci lasciamo, come dicevo, un attimo, ci ritroviamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori e agli ascoltatori e ascoltatrici naturalmente che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, sms o whatsapp. Cito in particolare un ascoltatore che dice: ma lei non era quella di Tanto è solo un'influenza? mai detta una cosa del genere. Una polmonite non è un'influenza. All'inizio, mentre in questa pausa ho riflettuto su questo messaggio, era il 21 febbraio, quel venerdì famoso quando ci fu il primo focolaio. Il giorno dopo, girando per Milano, feci un post su Facebook dicendo che era in corso sicuramente una reazione immediata alla quale non mi associavo, che era quella di disertare gli esercizi cinesi. Nei giorni successivi, tutti gli esercizi cinesi di Milano hanno chiuso di qualsiasi genere, in mancanza di una. Di un'ordinanza, di un qualsiasi ordinanza, è stato un ordine arrivato dall'ambasciata, dai consolati cinesi in Italia e sono ancora tutti chiusi. Dopodiché è passata una settimana, sono cambiati i dati, abbiamo letto quei dati nella confusione che molti esperti avevano opinioni diverse e sempre su Facebook ho scritto che come tanti ci eravamo forse illusi che non tanto che fosse solo un'influenza, ma che dovessimo sempre ricordare che anche l'influenza fa molti morti, specie sempre tra le persone più deboli come gli anziani o persone che hanno altre malattie, e che quindi era il caso semplicemente di continuare a ascoltare i dati e mantenere la calma. Ricordo a questo signore, che naturalmente non si firma, che mi consiglia di pensare prima di parlare, forse avrebbero dovuto pensare le persone che, come sappiamo, sono andate a sciare in quel weekend, sono poi corse al sud quando c'è stata l'ulteriore stretta la settimana dopo. Noi qui al gruppo Sole 24 Ore, io personalmente ho praticato il distanziamento sociale praticamente dall'inizio, quindi no, non mi riconosco assolutamente in questa, anche perché questo ascoltatore addirittura si spinge a dire che è grazie a persone come me che ci troviamo in questo enorme pasticcio. Ah, vabbè. Comunque, ripeto, mai detto che questa malattia, che è una polmonite virale, fosse poco più che un'influenza. Mai detto. Semmai l'hanno detto alcuni virologi come infettivologi e medici, come la signora così l'ha definita Burioni, con un'espressione sicuramente infelice, ma tant'è, è una donna, è appunto un medico dell'ospedale Sacco, che adesso ha anche una rubrica sul Fatto Quotidiano. Lei sì che disse che era poco più che un'influenza. Sicuramente un'opinione comunque molto più autorevole della mia, che peraltro una cosa del genere, lo ripeto fino alla nausea, non l'ho mai detta. Bene, torniamo al Sole 24 Ore che ha due pagine molto interessanti su come stanno reagendo le aziende italiane. Perché dico molto interessanti? Perché forse avrete sentito che negli Stati Uniti, tra le molte misure che ha annunciato o che ha detto che prenderà presto il presidente Donald Trump, c'è quello di una legge particolare che vale soprattutto per quando c'è uno stato di guerra, ma questo è, lo sappiamo, una sorta di guerra. Cioè lui può ordinare alle aziende di riconvertirsi per produrre quello che serve in questo momento. La cosa e si tratta di un obbligo, non c'è volontarietà in questo. La cosa interessantissima dell'Italia, che ancora una volta ci fa scoprire il valore di tante aziende e delle persone naturalmente che ci lavorano e che le guidano, specie sono tra l'altro aziende piccole e medie, è che stanno facendo questo praticamente in modo volontario. A pagina 6 e 7 del Sole 24 Ore di oggi trovate tanti esempi, da chi si è riconvertito per produrre disinfettanti, anche da chi ha comunque intensificato la produzione di prodotti che sono molto richiesti. E via dicendo. L'articolo portante di Luca Orlando, Cibo, vite, farmaci, la nuova domanda ai tempi del virus. Naturalmente c'è la grande preoccupazione di tutti. Mi ha fatto molto effetto un sondaggio pubblicato da El País 2 giorni fa, che diceva che la metà degli spagnoli hanno paura di perdere il lavoro. È questo un tema che riguarda tutti le persone naturalmente che hanno un lavoro dipendente, che sono dei dipendenti, perché comunque ci saranno misure, cassa integrazione. Purtroppo anche licenziamenti, poi ci sono tutti gli autonomi. Ecco, a pagina 9 autonomi non iscritti all'INPS senza congedo parentale. Questo lo trovate a pagina 9. Poi vi segnalo che mercoledì 25 con il Sole 24 Ore ci sarà un approfondimento, un allegato, la guida al DL Focus, con un focus naturalmente su fisco e lavoro, e poi il forum che prosegue sul sito del Sole 24 Ore, e fino al 27 c'è spazio per i quesiti e agli esperti. La pagina sport e business, inevitabilmente legate in qualche modo all'epidemia, calcio sconfitto in borsa ma fiducia sul dopo virus. Marcello Frisone ci fa la cronaca di questo bollettino di guerra, perché così è, in borsa per tutti i titoli. Ricordiamo che da domani la borsa di New York sarà chiusa per 2 settimane. Non era successo per l'11 settembre, non era successo per la crisi del 2008, quindi perché si è tornati, per l'appunto, le perdite sono state talmente ingenti nonostante i piccoli rimbalzi nelle ultime 2 settimane, che si sono persi tutti i guadagni record dei 4 anni di presidenza di Donald Trump. Ma appunto nell'articolo invece, che trovate a pagina 14 del Sole, a causa del Covid-19 il valore dei titoli azionari delle squadre europee risulta più che dimezzato. E poi anche la sezione lifestyle. Settimana scorsa abbiamo visto un focus sulle luci che possono aiutarci a stare in casa tanto e a lavorare in casa. Chi può anche, oltre a essere confinato in casa, deve anche conciliare le esigenze appunto di gestione della casa e magari della famiglia con quelle del telelavoro. Casa flessibile per fare spazio al lavoro. Giovanna Mancini, a pagina 17 del Sole 24 Ore. Sempre a proposito di coronavirus, pagina 12 del Corriere della Sera, Maria Egizia Fiaschetti ci racconta: isolata in stanza, il cibo dagli orti. Nel convento 60 suore positive al virus. Si tratta del convento di Grottaferrata, perché naturalmente ci sono tante situazioni, questo virus, lo ripeteremo sempre, ma ormai lo sappiamo, proprio non fa distinzioni, quindi naturalmente colpisce anche nelle case di cura, nelle case di cura di riposo per anziani e anche nei conventi. L'approfondimento sul, appunto, questo fatto che viene dagli Stati Uniti, pagina 21 del Corriere della Sera: i senatori leggono il report degli 007 e vendono le azioni prima del crollo. Il principale imputato è il senatore repubblicano Richard Burr, che è presidente della commissione intelligence. Il 13 febbraio ha venduto quasi tutto il suo patrimonio di titoli, il cui valore ha oscillato negli ultimi mesi tra 628.000 e $1.700.000. Poi ci sono James Inhofe dell'Oklahoma, repubblicano, Kelly Loeffler della Georgia e la democratica californiana Dianne Feinstein. Forse ricorderete settimana scorsa l'intervista a Federica Pellegrini, che diceva spero veramente che le Olimpiadi, anzi faceva proprio un appello, non cancellate le Olimpiadi. Su questo tema di giorno in giorno le incertezze aumentano. Pagina 45 del Corriere della Sera: Olimpiadi, cresce il fronte del rinvio, anche se il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Bach dice è presto per decidere. C'è un'intervista a Filippo Tortu che dice: io lotto contro i centesimi, non posso mettere in dubbio che Tokyo 2020 si farà, ma in realtà appunto nessuno può in realtà garantire che le Olimpiadi si faranno, o dire a questo punto che non si faranno. Michele Bocci sulla Repubblica guarda un po' avanti, guarda all'estate, al di là del fatto che molti di noi hanno, per esempio, sono stati a casa del lavoro prendendo dei giorni di ferie, vuol dire consumare le ferie che poi non ci saranno per altre cose, ma al di là di quello sarà un'estate comunque diversa. Michele Bocci: l'estate perduta, anche quando l'emergenza sarà finita non torneremo subito alla normalità. L'avvertimento degli esperti: dovremo stare attenti, il Covid-19 continuerà a circolare e rischiamo di doverci isolare ancora. Vi dicevo l'approfondimento, naturalmente lo sentirete anche negli aggiornamenti dei GR, su questa iniziativa per chiamare medici volontari, pagina 10 della Stampa, ma ce l'hanno tutti i giornali, il grande cuore dei medici italiani, sì di 8.000 volontari al governo. Un approfondimento sulla Spagna, sempre sulla Stampa, vi dicevo che ha la fotonotizia anche in prima pagina: ospedali in crisi e morti negli ospizi, la Spagna finisce nel baratro italiano. E poi una bella chiacchierata di Elena Löwenthal con Yuval Harari, che ha scritto molti libri, l'ultimo dei quali si intitola Sapiens, una breve storia dell'umanità, e dice: la scienza globale è più forte del virus, perché se vogliamo, e se vogliamo anche fare un confronto per esempio con l'epidemia di SARS scoppiata nel 2003, che poi dall'Asia si diffuse in molti altri paesi, quindi fu debellata di fatto nel 2004, se possiamo fare un confronto, difficile perché naturalmente in questi anni sono cambiate tante cose, è che adesso gli scienziati stanno veramente lavorando insieme e condividendo informazioni come mai era successo. E quindi dice Yuval Harari, il nostro vantaggio rispetto alle calamità del passato come la peste è la nostra enorme conoscenza. E la peste in passato era un mistero. Oggi, quando un medico di Milano scopre l'efficacia di un farmaco, in poche ore quel farmaco è a disposizione di un suo collega, per esempio a Tel Aviv, e viceversa naturalmente. Dal Messaggero vi segnalo ancora un altro aspetto. Mario Aiello racconta: a rischio la tenuta emotiva, boom dello psicologo in chat, perché naturalmente abbiamo tutti paura. La razionalità certo può aiutarci, ma ci sono persone che si fanno prendere dalla paura più di altri, e gli psicologi possono naturalmente dare un aiuto. Vi segnalo, prima della pausa sul traffico, sulla Verità, un'intervista al direttore di Radio Maria, il prete che nei giorni successivi all'esplosione dei focolai in Italia disse che era un castigo di Dio. Maurizio Caverzan gli fa la domanda, dice: lei pensa che questa pandemia sia un castigo di Dio? C'è una piccola marcia indietro rispetto a quelle prime parole. Perché dice padre Livio Fanzaga: è meglio dire che si tratta di un richiamo paterno. La parola castigo rischia di essere fraintesa dalla gente. Bisognerebbe prima spiegare che i castighi di Dio sono medicine amare, ma a fin di bene. Su questo ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. E l'ascoltatore che mi accusava di aver detto che era un'influenza, adesso si firma, è un'ascoltatrice, dice che io ho minimizzato. Comunque, archiviamo questo, adesso abbiamo tutti i dati su cui ragionare, e ci sono tanti consigli che possiamo seguire, seguiamoli tutti. Ricordo peraltro che ci sono anche strategie diverse a seconda del paese, e abbiamo visto la marcia indietro di Boris Johnson, che anche lui ha annunciato una chiusura non delle attività commerciali in generale, ma di ristoranti, pub. Vedremo appunto come reagiranno, come cosa succederà, perché poi temo che poi il giudizio, il bilancio, anche appunto su come si sono comportati gli esperti o i politici, lo potremo dare tra molti mesi. Interessante, prima di passare ai supplementi culturali, un'intervista che Enrico Mentana dà a Libero. È interessante questa domanda e soprattutto la risposta, mi ha fatto molto riflettere e credo sia molto vero. L'intervistatrice Alessandra Menzani chiede: anche il suo lavoro è cambiato? E Mentana risponde: la redazione è dimezzata dallo smart working. Succede nella redazione del TG della 7, ma anche qui al gruppo Sole 24 Ore, per quanto riguarda la redazione del giornale, della radio e dell'agenzia. E dice Mentana: gli ospiti sono tutti collegati, questa situazione che ha svuotato gli studi dal pubblico ha creato due miracoli: non si cerca più la battuta per il facile applauso, e che nessuno si parla addosso, bisogna parlare uno alla volta. Questo è verissimo, perché non è possibile quella pratica tremenda di parlarsi addosso, e anche qui, quando ci colleghiamo con alcuni sistemi che abbiamo qua, bisogna stare molto attenti appunto a non parlarsi addosso, perché a quel punto veramente l'ascoltatore o lo spettatore non capisce più niente. Approfondimento del Fatto Quotidiano, un po' da mani sul volante, per ricordare l'espressione creata da Alessandro Milan. Marzo senza lavoro, la casta dona solo parte dello stipendio, hanno paura ma incassano. Tranne i capigruppo, sempre nella capitale, gli altri si sono riuniti per pochissime ore, ma naturalmente niente taglio allo stipendio. Vi dico così al volo proprio un paio di notizie che non sono strettamente legate al coronavirus. Pagina 24 del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi ci racconta quello che sta succedendo in Libia. Ancora bombe di Haftar su Tripoli, l'Italia e l'ONU chiedono una tregua umanitaria. E poi ieri era anche la giornata, il 21 marzo, la giornata della memoria per ricordare le vittime della mafia, ha fatto un discorso il capo dello Stato Mattarella, pagina 27 del Corriere della Sera, la mafia è un cancro per la società che sconfiggeremo. E poi appunto sempre approfondire altri temi, ce n'è uno economico, si è parlato tanto in questi giorni, l'abbiamo anche appena citata per, come esempio appunto da parte degli utenti di coda ordinata di Esselunga, e c'è anche un riassetto economico all'interno della società. Esselunga si prepara alla fase 2, ce lo racconta Gianmaria De Francesco a pagina 26 del giornale. Giuliana e Marina Caprotti salgono al 100%, si accorcia la catena di controllo. Ma passiamo ai supplementi domenicali, perché come penso insomma un po' abbiamo tutti bisogno di pensare, non dico di pensare ad altro, magari almeno pensare in modo un po' laterale a questa epidemia. Non parlo naturalmente delle persone che la stanno vivendo proprio in primissima persona, magari con una persona che conoscono o addirittura un parente ricoverato, o che magari sono ricoverate loro stesse, non in terapia intensiva, dove naturalmente non ci può essere alcun tipo di contatto, ma magari comunque in ospedale. E allora cominciamo dalla domenica del Corriere della Sole 24 Ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Broadway. Non si può trovare Dio nel rumore. Dio si palesa solo nel silenzio. Dio non è mai nei mass media. Dio non è mai nelle prime pagine dei giornali. Dio non è mai in TV. Dio non è mai a Broadway. Era il 20 settembre 2013 e all'Università di Bologna, la più antica d'Europa, si celebravano i 25 anni della Magna Carta Universitarum. Universitatum, scusate. Chi meglio di Umberto Eco poteva essere il celebrante di questo rito accademico-culturale? Il suo discorso, da ex credente, comprendeva anche la provocazione che abbiamo citato e che sbocciava da una celebre frase biblica incastonata all'interno di una sorprendente epifania divina. Il focoso profeta Elia, avvilito e perseguitato, attendeva che Dio ritornasse a sostenerlo. Forse si sarebbe rivelato nel vento impetuoso e gagliardo che stava soffiando, o nel terremoto che all'improvviso aveva squassato le rocce del Sinai, o nel fulmine della tempesta che si era scatenata? No. Dio gli si era presentato in una kol demamà daka, che in ebraico può significare letteralmente una voce di silenzio sottile. Nella nostra sgangherata società, ove impera il rumore, ove i mass media fanno a gara negli eccessi, ove essere alla ribalta è decisivo per contare, Dio si cela nel grembo misterioso del silenzio, della contemplazione quieta. Solo là può essere incontrato e svelarsi. La copertina vera e propria però è di Vittorio Lingiardi, che ci racconta molto sui nostri polmoni e in realtà sull'apparato respiratorio, l'irrequieto e vitale respiro della psiche, il ruolo simbolico e fisiologico dei polmoni nel corpo umano, dalla filosofia antica alla più letteraria delle malattie, la tubercolosi, fino al virus che oggi ci minaccia e ci rende vulnerabili. Da pagina, sempre dal domenicale, Luigi Reitani ci ricorda tre grandi anniversari di questo 2020, tre grandi tedeschi stregati dal chiaro di luna: Hölderlin, il poeta Friedrich Hölderlin, Hegel, il filosofo, e Beethoven. Nacquero 250 anni fa. Le loro opere fiorirono dagli stessi presupposti storici e culturali, ma in profonda dissonanza con il mondo. Per questo sono così attuali, non monumenti del passato, ma frammenti di un possibile futuro. E poi la recensione di Gabriele Pedullà ha una nuova biografia di Machiavelli e anche una raccolta delle sue opere, l'opera Vita di Machiavelli, e per ora è stato pubblicato solo in Francia, ma naturalmente ci racconta ancora una volta questo grande protagonista italiano, con soprattutto delle teorie politiche. E poi un ricordo di Vittorio Gregotti, che si è spento a 92 anni per le conseguenze del coronavirus. L'architetto, allievo di Rogers, fu un dominus intransigente e mondano, ce lo racconta Fulvio Irace. Cristina Battocletti, visto che appunto passiamo tanto tempo a casa, il tempo della riflessione, trucchi geniali per fuggire dal mondo, e ci dà alcuni consigli sui libri dei grandi protagonisti del cinema da rileggere, ma anche magari sui film da rivedere. E Maria Luisa Colledani firma il ricordo di Gianni Mura. E invece una bellissima recensione a un libro che proprio Maria Luisa Colledani mi ha consigliato, e pubblicato da Bollati Boringhieri, Passione Sakura, lo ha scritto Naoko Abe, la recensione di Antonio Perazzi, Innamorarsi tra i ciliegi, la storia di Collingwood Cherry Ingram, che nell'Ottocento riuscì a evitare l'estinzione della pianta simbolo del Giappone. Un accenno veloce alla lettura del Corriere della Sera, copertina affidata a un artista come sempre questa settimana, è Natalie Meyer, e poi le prime 11 pagine con approfondimenti sul coronavirus, una conversazione a più voci intitolata Il futuro è un impegno collettivo. Invece il Robinson della Repubblica ha un approfondimento molto lungo, ma poi naturalmente ci sono anche articoli sul corona, su come affrontare l'epidemia da coronavirus, ma tutti questi articoli sono su Mina che compie 80 anni, The Voice dell'Italia compie 80 anni, anche se non la vediamo da tanto tempo, vogliamo dirle sei grande, grande, grande. Molti libri anche consigliati, interessanti anche tutti i consigli, li trovate sia sulla lettura che su Robinson per i lettori più piccoli, perché anche loro, anche i bambini sappiamo, sono a casa. E poi un bel ricordo, un invito a riscoprirla, Paolo Mauri su Lalla Romano, la scrittrice spia di se stessa. Per tutta la vita ha scelto di rendere pubbliche le notizie anche privatissime che la riguardavano attraverso i suoi libri, diventando così una maestra dell'autofiction ante litteram. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a Carmelo Lauricelli in regia, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.